Vabbè dai, siamo calmi, dai. Lasciamo stare le acque a posto. Beata che poi chissà frequenza, se la facciamo sparire poi un macello. Ma c'è sempre qualcuno che fa l'affronto, capito? Per esempio io ieri stavo parlando al 20, non stavo disturbando a nessuno. E mi sono piazzato qualcuno nel 15, nel 12, non so dove era. Senti i bruci, non si brucia i pitoni, compreso. Adesso stanno cercando a quella persona lì. Beh dai, anche io chiudo, dai. Sarà così. Non lo so. Vabbè dai, ciao ciao. Ciao Bobo, buon lavoro per stasera, già ci risentiamo adesso, dai. Ciao ciao.